Nessuno mi aveva mai guardato così. Hai 17 anni e senti una certa leggerezza nella nuova famiglia che ti accoglie. Betty è la tua nuova nonna adottiva. Ti trovi bene con lei. Ci vai d'accordo. Quello che ti piace degli Stati Uniti sono i colori e la facilità nelle persone che incontri. Quando torni a casa da scuola, non devi avvisare nessuno, né i tuoi genitori americani, né Jeremy, tuo fratello. Betty spalanca la porta e grida: "Hey man, yeah!" Come scusi? "Did you eat yet?" È moderna lei, più moderna di sua figlia, e ti propone da mangiare tutto quello che gli suona italiano: fettuccini Alfredo, spaghetti bolognesi, pizza con il pesto. E poi ti prende gli hamburger, quelli da scongelare, prende la salsa e ci fa annegare dentro la carne, oppure te li compra già pronti da Hardee's, da Wendy's, e ci mette dentro gli onion rings, cipolle impanate, fritte. Tutto quanto esce fuori da una pentola enorme piena di grasso, invitante e fritto. Alla mattina Betty ti fa trovare salsiccia, patatine fritte, succhi di frutta, ma poi ci sono anche i panini col salame e le cotolette alla milanese, grandi così. E insieme a lei scopri la grande cultura del sandwich, ham and cheddar. Sì, prosciutto e formaggio. E poi c'è il peanut butter banana sandwich, che è un sandwich fritto fatto con la banana, il burro d'arachidi e i pomodori verdi fritti. E puoi ordinare tutto quanto insieme ad una pepperoni pizza nel burro fuso da Domino's, da Papa John's, oppure ti mangi le chicken wings con i burritos di Taco Bell. E ti piace bere la Cherry Coke, la Dr. Pepper, la Mountain Dew, che è una specie di detersivo dolce. E tutto quello che bevi lo puoi mescolare col latte, e insieme al latte ci puoi mettere i cornflakes. Prendi un bicchiere, ok? Lo riempi col ghiaccio, vrum, ci butti la Pepsi, bevi, apri un altro sportello e prendi un sacchetto di patatine grosso così, Doritos si chiamano, un gusto incredibile, molto piccanti, ne mangi una, finisci tutto il sacchetto, ti riempi la pancia, ti viene la nausea, e allora Betty ti infila in tasca due candy dal distributore automatico. Sono come delle corde rosse di plastica al sapore di ciliegia, ma anche di bacon o di carne salata. Betty se le tiene arrotolate al tettuccio della macchina. È vecchia lei, ma può ancora guidare, e ti accompagna a scuola tutte le mattine insieme a Jeremy. Te li infila in tasca un giorno al bacon, un giorno alla ciliegia, un giorno al bacon e un giorno alla ciliegia. E la sera, prima di tornare a casa, ti porta a prendere le polpette di pollo. "It's great", dice lei, "perché arrivi a Chicken Drive, aspetti il tuo turno, e una volta pronte le polpette di pollo, loro te le scaraventano in macchina attraverso un tubo di plastica. Faccio schifo." Io sono Fausto. Nella stanza qua accanto c'è Jeremy, mio fratello. Sento il rumore dei tasti del computer che viene da quella parte. A lui gli piacciono soprattutto i liquori e i party. A me invece il cibo e il sesso. Virtuale. Non importa con chi o con cosa, ma l'importante è avere sempre fame. Noi andiamo a scuola fino alle 2. Poi torniamo a casa, sconvolti, Betty ci prepara da mangiare, crolliamo dal sonno e poi la sera dopo cena ci connettiamo al mondo. Nella chat ci sono varie stanze dove puoi conoscere un sacco di gente simpatica. "Hey, how are you? Ok, and you? Ciao ciao, hey, maschio o femmina, ciao ciao, hey, what's up, not much, and you, how old, where from, Oklahoma, no, Virginia, ciao ciao ciao ciao ciao, hey, how are you, I'm Italian, and you, I'm American, wanna trade?" Che cosa? Scambiare foto. "Ah, quante ne hai? Tante, giovani, dai dai, mandamene un'altra, ce le scambiamo per tutta la notte, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao, hey, what's up, una chat, do you like to cyber? No, mi fa schifo. E perché? Perché ho il fidanzato." E che cosa vuoi fare? Conoscere gente nuova. Come ti chiami? Candy Girl. Ti va di fare qualcosa, Candy? No, no, no, ho detto di no. Dai, dai, dai, sono eccitatissimo. E allora lei mi manda due foto del suo corpo, senza la testa, per non farsi riconoscere. È magrissima. E sul collo ha una farfallina tatuata. Candy Girl. Ma chi c'è dall'altra parte? Mi chiede di mandargli due foto anch'io. Ma io le mie le scarico da internet, faccio schifo. Tutta la notte al computer con lei. Tanto la connessione è gratuita qua. È tutto gratis. Negli Stati Uniti anche il telefono. Mi piacerebbe chiamarla, però sento la nausea delle palle di pollo che Betty ci ha fatto mangiare per tutta la giornata insieme a tutte le altre stronzate e mi viene da vomitare. Vado in bagno, ma non arrivo nemmeno al lavandino e vomito tutto dentro il cestone della roba sporca. Sono le 6 di mattina. Ho sete. Voglio dell'acqua. Vado in cucina, ma scendendo le scale sento un odore di carne. È Betty. Ed è già sveglia. E sta già cucinando, per questo giorno speciale, un tacchino ripieno. Che questa bestia per la quale tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce, che l'uccide. Sì, ma tanto, questi non capiscono un cazzo di italiano. Vorrebbero solo sentire il suono della nostra poesia prima del pranzo di questo giorno speciale. Adesso siamo tutti a tavola e tutti mi guardano. Come on, Fausto, come on, come on, come on. Io mi ricordo soltanto Dante, sì, così, a mio modo. Come on, come on, yes. Dico, red and green are the colors of Dante because they are the colors of the Italian flag. Sì, è giusto, a Dante piace Beatrice, because Beatrice, she's the figure of the perfect girl, like, you know, like in The Venere di Botticelli. Do you all know Botticelli? So, indi la cima, qua e su, menando, come se fosse la lingua che parlasse, disse... Ma è arrivata April, la ragazza di Jeremy. Su, possiamo mangiare adesso, dai, siediti, Fausto. Ma no, veramente, io preferivo parlare di Dante. Dai, è arrivata April, mettiamoci a tavola. Non riesco a smettere di guardarla. E tutti se ne accorgono. Betty intanto arriva con il tacchino senza la testa tra le mani che fuma. Come on, Fausto, sit down. April è magrissima. Capelli neri, il naso appuntito, un brillantino sui denti e sul collo si intravede una farfallina tatuata. Ma è Candy Girl! Ma sì, è lei, la riconosco! E allora io ricomincio e dico sì, perché sapete, in fondo a Dante gli piace l'inferno. Yes, this is the most beautiful place for Dante. Sì, è vero, a Dante piace Beatrice, ma Beatrice, she is in paradise, mentre lui all'inferno incontra una ragazza che si chiama Francesca. E Francesca è una ragazza di Rimini. E Rimini is the most famous city in Italy for discotheque and party. Yes, because every young people go to Rimini for dancing during the summer. So, Dante incontra Francesca in Pineta, ok? Solo che poi però Francesca è sposata con un altro uomo. È solo che poi a Rimini ci sono le discoteche. E Paolo e Francesca infatti si incontrano in discoteca, mentre il marito intanto è a casa che si guarda dei film, come dire, dei film normali per adulti. E Paolo invece è bello e l'amore di Paolo è più duro adesso. Lui la ama e poi però loro vanno a letto insieme e suo marito li scopre, perché Francesca is in our culture, she's like a medieval. Sì, a medieval porno star. Sì, una porno star medievale. Like a prostitute, yes. No, it's because we, in our culture, we always said that the prostitution is like the most ancient jobs in the works. Nessuno mi aveva mai guardato così. Si sono offesi, forse? Loro volevano soltanto sentire il suono dei versi di Dante, nient'altro. E allora Jeremy si alza in piedi e grida: Come on, man! Shut the fuck up! Sit down! God damn it! Il Thanksgiving Day può cominciare adesso. Non riuscivi più a parlare l'inglese e allora poi alla fine te la sei cavata con Dante. Sì, ma non è una cosa normale, dico io, conoscere una ragazza in chat durante la notte, parlare di sesso, vedere le foto del suo corpo, poi il giorno dopo ti pare di riconoscerla, ma non puoi dimostrare che è lei. E adesso nessuno vuole più ascoltarti. E allora tu proponi le solite cazzate italiane, cioè il cibo, lo sport e la politica, e dopo un po' ritorna tutto come prima. Ma dopo il tacchino, nonna Betty propone a tutti quanti di andare in giardino per giocare allo sport nazionale. Io ho la mazza in mano e tu hai il guantone, Jeremy, e mi stai sui coglioni, Jeremy, perché tu stai con la mia candy girl, Jeremy. Oh, come on, man, let's play baseball. No, thanks, man, really. I never played baseball before. Oh, come on, man, just one time. Okay, I will try. Ready, man? Yes, there you go. Shit! Sorry, man. No, that's okay. I want to try again. Okay, one more time. Ready, man? Yes, there you go. Shit! Fuck! God damn it! Never mind, Fausto. Take it easy. What do you want to drink now? Cherry Coke? Whatever, man. Dr. Pepper is fine. E adesso io ce li avevo tutti davanti così come in uno schermo e a un certo punto io ho sentito come una specie di preghiera ed era come se tutto quello che pensavo si amplificasse nella mia testa e sentivo i pensieri e li vedevo e non riuscivo più a parlare l'inglese e sentivo la mia voce uscire e ho detto fai uscire la voce, ho detto parla! Parla! And I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Dalla tasca tiro fuori le chiavi dell'armadietto per mettere dentro lo zaino e lascio anche l'ultimo libro che mi hanno appena spedito dall'Italia, tutto Dante in 1000 micropagine portatili. Certo che questi lucchetti. Ehi, Fausto, hai bisogno d'aiuto? Eh? Che cosa? Ah, è April, è già qua, vuole aiutarmi. No, thanks April, don't worry for me. E allora chiudo tutto ed esco fuori con lei. Siamo soli oggi, Jeremy non c'è, è fuori per il campionato. Lui si fida di me, mi guarda in faccia ogni mattina e mi dice tu sei il mio fratellone adottivo, il più simpatico e scemo, europeo, simpatico e scemo. Io non so perché si è convinto così, ma crede che io sia un po' weird, un po' strano, perché parlo sempre di arte e di cibo con la stessa passione di Dante e di serie TV. E anche i professori mi dicono così, che gli sembro particolare ai loro occhi. Sì, intelligente e strano. Jeremy intanto è diventato uno dei più grandi battitori di baseball. Il campionato lo fa girare in tutta la nazione. Alcuni dicono che lui sarà la nuova rivelazione dell'anno. Io non ci credo. C'è posto per altre 3 persone alla festa di questa sera. C'è posto per altre 3 persone alla festa di questa sera. Tu che cosa vuoi fare, Fausto? Vuoi venire con noi? Ma io non ho portato niente di elegante dall'Italia, né la giacca, la cravatta, perché a quest'età non ti immagini mica di finire subito nel mondo delle feste eleganti e dei college party made in USA. Ma April vuole proprio portarmi fuori con lei questa sera. È super sexy oggi. E io guardo ancora il tatuaggio della sua farfallina sul collo. Anche se ho scoperto che tante ragazze qua hanno la farfalla tatuata. Io finalmente posso uscire con lei. Io... Lei, April, guida e ha una macchina super veloce, piccolissima e stretta. Ci dirigiamo verso il centro commerciale. April mi accoglie sempre sorridendo come se noi ci conoscessimo da una vita. E lei dice che l'accoglienza è tutto qua negli Stati Uniti. E io vengo dall'Europa, dall'altra parte del mondo. Ma quante cose sai tu, sai tutto tu, mi parli sempre di Dante e di Francesca e del Medioevo. Tu le dovresti insegnare queste cose, sì tu le dovresti insegnare a scuola. Io faccio finta di niente e recito la parte di quello abbandonato dal mondo. Lei pensa che io mi sento da solo qua in un paese straniero e che mi manchi la mia vera famiglia italiana. e allora cerca di consolarmi, così, a suo modo. Sicuramente ti mancheranno le serate a guardare la TV con i tuoi genitori, e sicuramente ti mancheranno le corse in bicicletta con i tuoi migliori amici, e sicuramente ti mancherà il caffè col gelato in spiaggia al mare a Venezia, e sicuramente ti mancheranno le strade di Firenze. Ma insomma, April, sicuramente tu non sai niente di me e della mia vita, e ti diverti ad accogliermi nel peggiore dei modi. Ma perché non mi ascolti senza dire niente per una volta? Tutto questo ovviamente non glielo dico. Lei ride e io lo tengo chiuso dentro di me, come la maggior parte dei miei pensieri sul mondo, e rimango lì a fissarla, beato, mentre lei guida da Dio. Adesso noi due siamo già al centro commerciale e senza che me ne accorgo siamo già dentro a un negozio, e lei mi propone già 3 vestiti eleganti, uno bianco, uno rosso e uno nero, e poi mi chiede se voglio la cravatta o il papillon. Le scarpe, dice, quelle non sono un problema perché quelle si possono mettere anche da ginnastica, che fa più ribelle, fa più rivoluzionario. Io dico, non so April, tu che cosa prenderesti? Ma non lo so Fausto, devi decidere tu. Beh, quello bianco forse potrebbe andar bene. Ma no, sembri un imbianchino che vende i gelati. Quello rosso allora è troppo evidente, prendilo nero, lo smoking con il papillon e le scarpe da ginnastica bianche, che fa più trendy. Ma sei sicura, April, che trendy? Ma sì che sono sicura, dai, prendile Fausto, prendile, prendile, prendile, e costa tantissimo, un prezzo assurdo, ma tanto in dollari mi pesa di meno, pago tutto ed esco fuori con lei. E sono eccitatissimo adesso, elegante finalmente, con le scarpe bianche da ribelle. Ma April mi dice, adesso è inutile Fausto il vestito, dai, toglilo, te lo metti stasera. E allora lo tolgo e intanto penso, chissà come sarà lei questa sera alla festa, elegantissima, penso, in rosso. Ma no, sarà di nero se mi ha detto di venire vestito di nero. Io finalmente posso uscire con lei. Io, lei, ma Jeremy è fuori per il campionato. E quindi chi è la terza persona? E glielo chiedo così, con il vestito in mano. Fausto, ho pensato che forse potrebbe farti piacere conoscere Kate, la mia migliore amica. Ah, ecco chi è la terza persona. Che bello, conoscerò la tua migliore amica finalmente. Va bene Fausto, ci vediamo stasera, ti aspetto elegante. Ciao ciao, wow, I have a girl for the party tonight. Sì, anch'io una ragazza per il party. Non April, purtroppo, io speravo di uscire con lei questa sera, invece no, c'è Kate, la sua migliore amica. Nice to meet you, Kate. Nice to meet you too, Fausto. Anche Kate ha un tatuaggio. Che bel tatuaggio che hai, Kate. Thanks, it's an eagle. Che belle le aquile. È un po' grossa questa però, eh? Non ride, anzi, noi siamo molto imbarazzati alla festa, io e Kate. April intanto è in giro con tutte le altre sue amiche. Si divertono loro. Noi no, perché abbiamo paura di sudare e di sporcarci nei vestiti. E per questo siamo immobili e quasi non parliamo. La band intanto comincia a suonare qualche canzone elegante. Io guardo April, Kate guarda me, è un'ossessione. Come on, Fausto, come on, let's go dancing. No, thanks, Kate, really, I never danced before. Invece di andare a ballare, perché non andiamo a vedere la premiazione di Miss Elegant Party? La sala è piena di fumo adesso perché sta per cominciare una specie di sfilata. Dico, sai, a me mi piacciono soprattutto le more, quelle più magre. Ce ne sarebbero almeno 8 che mi piacerebbe votare. Che cosa dici se votiamo insieme la migliore Miss Party? Non dice niente, mi guarda in silenzio con la bocca spalancata, ma pur di starmi vicino lei prende un foglietto e una matita, uno in due, per sentirci più uniti. E votiamo ad ogni passaggio di Miss. Una Miss, una X, una Miss, una X, una Miss, una X, e ogni tanto qualche frase senza senso di Kate. In the United States, it's not a problem to be what you like to be. This is a very freedom country. Sì, sì, va benissimo. Grazie, Kate. La sala è piena di gente adesso e Kate mi spiega che qua c'è la musica, sì, ma che non è una vera e propria discoteca questa. Le Miss intanto sfilano in passerella, ad una, si tolgono qualcosa, noi stiamo fermi, ma mi pare piuttosto una palestra questo posto gigantesco. E a un certo punto qualcosa mi sfugge di mano perché ci passano un sigaro pieno di roba, tabacco, mi dicono. Io e Kate incominciamo a fumare e dopo siamo ancora più contenti di votare insieme. la musica elegante si trasforma in breakdance e April ormai è scomparsa nel fumo, nella nebbia dei miei pensieri, e ancora non so chi sarà questa Miss Elegant Party, ma chi se ne frega, tanto c'è Kate qui con me che ha un tatuaggio come quello di April. Kate è un'aquila, April è una farfalla, ma va bene così. La musica elegante si trasforma in breakdance e tutti fanno un cerchio intorno a Miss Elegant Party e poi arrivano ragazzi al centro della pista a ballare la breakdance e poi mi spingono dentro, mi dicono che mi devo esibire anch'io, io mi voglio esibire ma vado al centro e non sono capace, invece della breakdance io mi metto a ballare la tarantella e tutti ridono e si divertono e persino Kate, e qualcuno inizia a spogliarsi adesso e allora mi inizio a spogliare anch'io, mi tolgo la maglietta, ma non basta, qua bisogna spogliarsi di più. I ragazzi mi dicono che non va bene così, che ci sono le ragazze adesso e bisogna usare la polverina, e allora io metto la polverina nel bicchiere, bevo e diventa tutto colorato, sì, tutto inizia a muoversi adesso, giallo, rosso, verde, blu, tutti i colori degli Stati Uniti. Io e Kate incominciamo a ballare e ci avviciniamo sempre di più, finché non ci strusciamo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché alla fine, finalmente, alla fine, finalmente, sì! Finalmente la bacio, sì, l'ho baciata! Ho baciato l'amica di April, finalmente! L'amica di April ha un sapore adesso, ha un sapore addosso, un sapore di aquila, di vomito, non lo so, non capisco se è una cosa bella, eccitante oppure no, ma dopo che ci siamo baciati abbiamo bevuto ancora e poi abbiamo vomitato insieme e io ho vomitato tutto dentro la macchina di April. Siamo tornati all'alba, non mi ricordo niente di come mi hanno portato, non mi ricordo niente di come mi sono distrutto, non mi ricordo niente di niente. Sono a letto adesso, ancora vestito, e sento la luce e le ombre dei miei genitori tutto intorno a me. Come on man, it's late, get the fuck up, god damn it, we gonna go church. Cazzo, è Jeremy. Apro gli occhi e c'è tutta la mia famiglia, tutti vestiti per la domenica. Cazzo, per la messa della domenica. Oggi nonna Betty celebra il 10° anniversario dalla morte di suo marito. È tutta in nero, genitori in blu scuro e Jeremy, il fratello rivelazione del baseball, in jeans e camicetta nera e un sorrisetto del cazzo da vincitore della partita di ieri. Io, invece, a letto, distrutto, ma vestito elegante. Mi alzo, barcollo, vado in bagno, mi sciacquo, mi asciugo, bevo un po' d'acqua e poi sono pronto. Sì, elegante almeno, tranne le scarpe da ribelle che fanno un po' schifo perché sono sporche di alcol e di vomito. Ma non importa, mi stanno aspettando. Esco di corsa, mi infilo in macchina. Siamo un po' stretti dentro, sì, ma almeno ci sono. Mezzo distrutto, ma ci sono. Sono ancora con la mia famiglia americana. L'importante è esserci sempre. E io ci sono. Anche oggi ci sono. Ci sono. Ci sono. Ci sono. Ci sono due tipi di persone al mondo, cari fratelli. Quelli che vivono e quelli che muoiono. E a chi volete appartenere voi? A chi vuoi appartenere tu? Tu sei disposto a vivere oggi? Oppure preferisci morire? Perché c'è chi sembra vivo qua tra di noi, ma è come se fosse già morto, e c'è chi invece è morto ma è ancora vivissimo qua tra di noi. E questo è il caso di Donald, cari fratelli. Il marito di Betty. Mister Donald era un uomo come voi, ma Un uomo libero era Donald, ma soprattutto un credente, un uomo di fede. In the name of the Lord, Mr. Donald ha camminato sui fili d'erba ogni mattina. In the name of the Lord, Mr. Donald ha sempre accolto tutti come fratelli. In the name of the Lord, Mr. Donald ha chiesto scusa a Betty 100 volte l'anno. E Betty ha sposato Donald, e Donald ha sposato Betty, e Betty è qua tra noi oggi, è Jeremy, il nipote di Betty, perché la parola più importante per Donald era grazie. Sì, grazie alla base di tutto, da pronunciare ogni giorno, come il sole, come il mare, come il cielo. In the name of the Lord. E anche Donald è stato un ragazzo, sì, un ragazzo proprio come te, Fausto. Sì, Fausto, noi stiamo parlando con te. Siamo qua per celebrare l'anniversario della morte di Donald, ma per parlare di te. Oramai sei caduto nella ruota del criceto, Fausto, e ti immagini pieno di grasso mentre coli a picco e hai paura perché non sai più dove aggrapparti, mentre precipiti sempre più in giù, sempre più in basso, verso l'abisso. E allora forza, amico mio, coraggio. Tu che cosa vuoi fare della tua vita? Tu hai deciso di salire o di scendere, Fausto? Nella mente, nel cuore, nell'anima, in ogni momento devi cercare di scegliere da uomo libero. E allora oggi è il giorno per farlo. E allora alza le mani al cielo insieme a noi, Fausto, e raccontaci la tua verità. Adesso, subito, in the name of the Lord, qual è il tuo sogno? Qual è il tuo desiderio? Insomma, che cosa vuoi fare qua negli Stati Uniti? Oggi puoi dirlo, oggi devi dirlo. E allora fai uscire la voce, fai uscire la voce, ho detto, parla! Ma io non saprei, non credevo. E invece credici, Fausto, credici. Che cosa vuoi fare? Dillo. Ma non lo so, io forse potrei. Cosa, Fausto, cosa? Dillo, potrei. Dillo, insegnare. Che cosa hai detto, Fausto? Insegnare? Ma che cos'è che vorresti insegnare tu, Fausto? Ma non lo so, io forse potrei insegnare. Cosa, Fausto, cosa? Tutto. Ma tutto cosa? Dove? A chi soprattutto? A scuola! Sì, esatto, a scuola. Io potrei insegnare a scuola tutto, tutto quello che so, tutte le cose del mondo, tutto, tutto, tutto. Dante, Francesca, Beatrice, l'arte, il Medioevo, tutto, tutto Dante in 1000 micropagine portatili. Indi la cima, qua e su, menando, come se fosse la lingua che parlasse e disse: nonna! Nonna Betty! Nonna Betty, ti posso ripetere, Dante, nonna? Nonna! Nonna, mi ascolti? Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me per più di un anno là presso Jeremy? Jeremy? Jeremy, ti posso raccontare un altro pezzo del mio esame nella dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, vincer poter dentro di me l'ardore che io ebbi a diventare del mondo esperto e dei vizi umani e del dolore. Io vi vorrei presentare Dante, perché credo che lo potrei insegnare qua in America. Yes, in the United States, to be what you like to be is not a problem. La commissione mi guarda in silenio. E allora io ricomincio. Ma misi me per l'alto mare aperto, solo con un legno e con quella compagna piccola dalla quale non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin lì, infin la Spagna, e le altre che il mare intorno le bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando giungemmo a quella foce stretta dove Ercole. That's great! That's unbelievable! I've never seen anything like that! You're the man! Sì, insomma, io li avevo convinti. Sì, perché gli avevo recitato tutto Dante, tutto a memoria, dal primo all'ultimo verso per la prima volta nel mondo. Sì, ero diventato un professore di italiano in una delle migliori scuole americane. Mi avevano preso finalmente e io finalmente potevo insegnare l'italiano a scuola. Avevo realizzato il mio sogno, avevo esaudito i miei desideri, perché potevo stare negli Stati Uniti e potevo stare con April. Sì, poi c'era anche Jeremy, ma adesso era per sempre, era per tutta la vita. Sì, potevo stare in questo mondo incredibile e potevo anch'io dimostrare che valevo qualcosa. This is a very freedom country! Sì, dovevo dirglielo ad April, subito, subito, dovevo scriverglielo almeno. E allora io mi connetto ad internet, ma scopro che qualcosa è cambiato adesso. Sì, perché adesso posso cominciare a guardare e a chattare contemporaneamente. Sì, come avendo come delle una specie di album di foto viventi con tutto pubblicato, con foto, video, messaggi della persona, come in una specie di piazza virtuale enorme dove tutti possono guardare, commentare, dire quello che pensano, con tutto, con proprio il nome e il cognome. E allora mi iscrivo anch'io e mi faccio la mia pagina personale di questo album vivente e da lì inizio a cercare tutti i miei primi amici. Cerco Jeremy e lo trovo, e trovo anche Kate, e poi c'è perfino nonna Betty, ci sono tutti quelli che conosco, ma soprattutto c'è lei. Sì, lei, io la riconosco. È April, è magrissima e ha tantissimi album di foto, tutti eleganti qua, vestiti di bianco. This is a wedding party. Ah, si sono sposati alla fine. Guarda, c'è anche Kate tra gli invitati, con quell'aquila enorme. E padre Lilian è proprio lui, in the name of the Lord. Ci sono tutti, guarda. Hey, April è online adesso. Allora inizio a scrivergli in chat. Hi, April, this is Fausto. How are you? Hi, Fausto. I'm okay, and you? I am okay. So, how is everything going? Everything's going good, Fausto. That's great. Yes, and you know what? What? I finally became a teacher. Wow, yes, I'm a teacher, April. I'm an Italian teacher for Dante. Do you remember Dante? E grazie a te, tu te lo ricordi? Te lo ricordi, tu me l'hai detto quante cose sai, tu le dovresti insegnare queste cose, le dovresti insegnare a scuola, tu me l'hai detto, te lo ricordi? Era il giorno del party e mi hai aiutato a comprare il vestito quello elegante con le scarpe ribelli, ti ricordi? Non ti ricordi? Well, I am a teacher now. I am an Italian teacher. Are you happy for me? It is great, isn't it? It is really great. Yes, Fausto. So, what about you? Ho visto le tue foto nell'album di te e di Jeremy. Sono così contento per te. Dobbiamo vederci una volta per festeggiare insieme i nostri successi. Dove? Da te? Dimmelo tu. Io vengo senza problemi. Ok, Fausto. Sento Jeremy e dopo ti faccio sapere. Ok, perfetto. Quando ci risentiamo, ti scrivo io, Fausto. Ciao, ciao. Ciao, April. Ciao, April. Ciao, April. Sei lì, April? Ci sei, April? Sei lì? Sei lì, April? Ci sei? Sì, sono qua, Fausto. Allora hai sentito Jeremy per quando rivederci? No, non saprei, Fausto. Ciao, ciao. No, aspetta. April, è urgente, è importante. Tu quando puoi, quando potresti, non so, Fausto. Ciao, ciao, aspetta, April. April, ci sei? Sei lì, April, ci sei? Ciao, April. Sai, oggi a lezione ho parlato di voi coi ragazzi, di te e di Jeremy. Tanti studenti sono appassionati di baseball e Jeremy è proprio un idolo per loro, un dio. Gli ho raccontato di voi e del vostro matrimonio e che eravamo insieme una volta, io e Jeremy, come fratelli. Ah, ti ho vista con lui in una rivista importante. Jeremy è proprio una star, l'ho visto anche in una pubblicità. C'era anche nonna Betty da voi questo weekend, l'ho vista in un album di foto che avete pubblicato online. E c'era anche Kate e i genitori di Jeremy, belle le altre che hai pubblicato, state benissimo insieme. Wow, avete cambiato la casa, i mobili nuovi, belle le foto nella macchina nuova, spettacolare, davvero, bella, fighissima, cool. April, ci sei? Ci sei, April, sei lì? Siete bellissimi, mi piace, ci sei, April, sei lì? Ciao April, ti scrivo una mail perché non riesco più a entrare nella tua pagina personale. C'è qualche problema? Ti scrivo una mail così almeno sono sicuro che tu la ricevi. Posso venire da voi questo weekend? Io non insegno più tutti i giorni a scuola. Posso venire? Fatemi sapere. Pronto? Pronto, chi parla? Sì, sono Fausto, il fratellone adottivo. Ho passato qualche anno da voi ai tempi dell'high school e poi sono rimasto qua negli Stati Uniti. Sì, mi serve il numero di April perché io la devo contattare per una cosa importante. Ce l'avete anche voi, no? Il numero di April. Sì, con la pagina personale ci sono dei problemi. Sì, mi serve il numero. Sì, voi dovete darmelo.